Ciel, o popolo tuo, Mosè, lo giuro, ove

Pensar con me, ah, Smelti che un giorno furta dei suoi planeti, Anch'io la merda molto trasformata in angue, e fu da me l'onda cangiata in sangue. Forse alle frodi sue fortuna rise, vence pecorai che al fertil mio ingegno fia lieve momento muover la plebe. E farti appien contento. Delirio, quasi fuori di se stesso, ecco la madre in cima, con angue e geme. Mio principe, amata speme, colsi questo momento per ignorarmi astento dal vigile. Il petto, deres guarigiarai. Fatto pierno maligno pose al credo lucidio grazie agli dei se per squarciarmi il figlio mi muove a spegno sono tutti inganni e qual prova maggiore non no. Va mambre rencia tu stesso il piede a fretta e sappia da voi Mosè che rivocato il cenno e se da Egitto un sol partire a disca a cerva morte il punirà qual gioia ti riflette il mio lì mangia consiglio pace o regina o riso il lupo e basti a tremi il mio nemico tremi Mosè se il mio voler contrasta. Oh, sì crudella fado, tu dormi piena te, la te, ah sì crudella fado, tutto mi viene a te, sì, tutto mi viene a te, ah sì crudella fado, tutto mi viene a te, ah sì crudella fado, tutto thank you. superbi, Iddio lo vuole, Iddio lo esige. Palesi son due fare, o oh, errore! La grandina di fuoco ti costruggerà. Minacci, audace, amici, cada costumi. Oh,